Attenzione, canale 10, c'è qualcuno? Chi è avanti? Chi vuoi che sia? L'uomo più caldo del mondo. Gianni il caldo. Ai. Buonasera a todos. Ma che ha pizza di 16? Io ce la fate già. No, io ero qui con lo... stavo navigando in rete, era acceso, con lo squelci. E naviga, naviga tu, pirata. Avete parlato in due, è passato Natalino. Ripeti Gianni. Ho detto buonasera a te e a Natalino. Buonasera Gian, ben sentito. Oddio, hai visto che bella giornata. Io vabbè, ho fatto il giro lungo ieri, oggi no, oggi riposo. Ieri invece tutta la sera in giro praticamente, pomeriggio e sera, e anche notte. Beh, a te, io dico la verità, mi sono messo a letto dopo pranzo e mi sono svegliato adesso, proprio ho dormito come un ghiro. Eia. Sì, ieri, ridendo e scherzando, tra un giro e l'altro, praticamente ho varcato la soglia di casa alle 2 di notte. Non ci credevo nemmeno io, com'è possibile? Natalino, riprendi. Caffa, tu sì che te ne freghi. Guarda, ieri mi pare, avevo portato anche il baracchino mio, una certa ora in macchina, mezza serata, ma non c'era un cane. E io ieri ho provato a accendere, non c'era nessuno. Cioè, è un macello mi mette il baracchino in mare, la maggior parte delle volte non c'è nessuno. Poi io non ce l'ho fisso, capito, lo metto all'occorrenza, se no si rubano tutto dalla macchina. Sì, infatti. Oh, io, Marco, sono riuscito a mettere il DSP, una figata. Non riguardi che sono in... Ha fatto anche la schedina, ma è lo stesso che ha Luca? È una schedina così, l'ho messa dentro la scatolina e lo posso attaccare a qualsiasi apparecchio vogliono. L'ho collegato a una colonnina, l'ho collegato e poi all'apparecchio. Cazzo, una figata è. Sì, guarda, rispetto a una volta, nonostante sia una cosa che agisce solo sull'audio, li hanno migliorati questi DSP così tanto che sembra... capito? Già hai capito cosa intendo? No, nonostante sia basato sull'audio, lì è così buono perché c'è proprio un microchip che processa l'audio e elimina tutte le interferenze, capito? QRM, QRN, eccetera. Sì, infatti, se no è impossibile, in 40 metri non si può ascoltare, c'è un QRM della Madonna. Invece questo te lo elimina, ti fa ascoltare le voci, perché ti processa proprio l'audio vocale, capito? Eia. Beh, diciamo, vabbè, in 40 metri però non c'è un QRM così alto, le modulazioni le senti bene, cioè le senti sì, quando fanno pausa senti il fruscio di sotto, ma capibile, non è problematico, con la 5 ottavi io sto parlando, 20 metri, 40 metri, ecco, gli 80 metri sono già molto più rumorosi, quello è vero. Vai Gianni. E anche per me è così, probabilmente la zona, sai, la zona tua che c'è QRM, perché anche da me quando ascolto, anche ieri stavo ascoltando, si sente benissimo, tutto bene, mentre ascoltavo mi guardavo il cellulare e così ho passato la serata perché non c'era nessuno. Ma anche loro si stavano lamentando che c'è troppo QRM. È questa stagione, perché io i 40 metri così male non li ascoltavo, non li ho mai ascoltati come quest'anno. Anche loro si sono lamentati. Comunque col DSP è tutto più di lusso, perché ti toglie tutto il QRM, capito? Ti fa sentire le voci proprio. Beh, non è altro che un filtro, dai. È vero, comunque, se tu stai tante ore in HF a ascoltare, magari anche con le cuffie, se non hai DSP ti assudroneggia, È un macello, infatti. Ma tutta questa suola, lo sa? Poi si abbassa la... voi il giretto l'avete fatto oggi? No, io me l'ho fatto solo col cane stamattina e basta. Poi sì, c'era una bella giornata, poi sono andato a casa perché ho fatto il pranzo, c'avevo gente a casa, quindi non sono andato a nessuna parte. Io ancora in campagna niente, peccato, perché poi quando mia zia comincerà a organizzare in campagna pranzi, cene, naturalmente quando il tempo migliorerà ancora e sarà una cosa bella, dai, ancora no. K, chi altri c'è qua? Avanti, sul 10. Tutti fuori sono questi CB, tutti con lo yacht, chi con lo yacht, chi con l'aereo privato, capito, a godersi il fine settimana, e a noi ci lasciano, a noi poveri ci lasciano in questa valle di lacrime. E gli accontentiamoci, Marco, che cosa vuoi fare? E curare siamo una di voi. Cosa vuoi fare? Interessante stare tranquilli, sereni, e basta quello, dai. Vabbè, poveri, per modo di dire, cioè non è che siamo sempre da mangiare o roba del genere. Va bene. Tu signore, anda bene Meda. Personale. Avete ripreso assieme. L'altro giorno al semaforo c'era quello lì, poveretto, che pulisce i vetri delle macchine. E ti chiede un euro, come si chiama? Elon Musk, poveraccio, ti ho dato un euro per pulirmi il vetro. Già lo sai chi è, sì. No, qual è quello che sembra Aladino? Elon Musk è quello ricco sfondato, quello che fa le missioni spaziali per conto suo, quello della Tesla, è ricco sfondato, sfondato. Altro che pulire al semaforo i vetri, ciu ciu. No, no, non lo conoscevo, dai, non lo sapevo. Ce l'avevo presente. Uia. Marco, accontentiamoci del poco. Almeno noi abbiamo da mangiare. C'è gente che non va da mangiare in mano. Sì, sì, quello è vero. Adesso per farti un paragone, allora, lui aveva fino a poco tempo fa mi pare 350 miliardi di dollari come capitale, miliardi di dollari, ci compra la Sardegna per dire, e forse anche l'Italia, e poi ha avuto un tracollo economico di ha perso 100 miliardi di dollari. È una botta, comunque, perdere un terzo del capitale, però si sarà rifatto prontamente. Scusa Marco, che stavo sentendo un audio, ripeti quello che hai detto perché non ti ho sentito, stavo ascoltando un audio che mi hanno mandato. E io ho detto che questo Elon Musk aveva come capitale 350 miliardi di dollari e siccome ha avuto un piccolo tracollo economico ha perso 100 miliardi di dollari, però credo che si sia rifatto abbastanza. E non rimane povero di sicuro. No, di sicuro. Anch'io ieri avevo 100 miliardi di dollari, poi le azioni sono crollate, adesso non ho niente, vedi? Le azioni se non ci sai fare, è meglio non giocarci. L'altro giorno dopo anni che non lo vedevo ho visto un biglietto da 500 euro, esiste ancora, cioè non è fuori corso, porca miseria, non era mio, era di un'altra persona. Ho detto aspetta, fammelo toccare, fammelo fotografare, bello incornicio. Io quando lavoravo li vedevo ogni giorno, li tiravo lì in casa, ti puoi immaginare. Aspetta, come già ripeto? Che quando lavoravo queste banconote qua le vedevo ogni giorno quando ritiravo gli incassi, non mie. Sì, ma no, io invece da un bel po' non ne vedevo, ma nemmeno tra le mani anche di nessuno, io vedevo il taglio da 200. Quello da 500 francamente non lo vedevo più circolare, ma nemmeno in banca mi li vedevo trattare. Quando c'hanno la cassetta di soldi che tu ritiri per esempio. Forse li vogliono eliminare o togliere dalla circolazione, forse era troppo, capito? 500 euro, come dire, un milione di lire, tutte in un pezzo di carta, se perdi quello uno è mezzo rovinato, perde uno stipendio quasi. Ma neanche le 100 ci sono più, non le ho più viste da nessuna parte le 100, ci sono solo le 50, le 20 e le 10 e le 5. Boh. Quelle da 100 non le ho più viste le banconote. Non solo che quelle da 500. Anche io quando vado a ritirare me li dà in 20 o in 50. Polizia. Poi, per esempio, la banca nostra aveva mandato, assieme all'estratto contannuale, un avviso che interromperanno l'erogazione di soldi liquidi dal bancomat per non invogliare a ritirare, capito? Cioè, se deve ritirare, deve entrare dentro e dallo sportello dove c'è l'addetto o l'addetta agli sportelli. E poi ho letto da qualche parte che vogliono eliminare almeno Banca San Paolo, telefono, scusate. Pure un banco ma te ne vuoi eliminare. Lo so qui come ti fermo. La fila, ogni volta che devi andare a tirare i soldi ci vuole la fila e non conviene. No, a me non mi hanno mandato nulla, la mia banca non lo fa. Se lasciano quella di Marco, ma la mia non mi ha mandato nulla. Io ogni mese ritiro i soldi per cui. E infatti. Io ho la San Paolo IBI, poi bisogna vedere Marco che manca c'è. Stiamo parlando proprio della San Paolo, mi sai. A me non mi hanno mandato nulla. E adesso quando rientra vediamo cosa dice. Poi cosa vogliono? Paghiamo le commissioni, ogni volta che ritiri paghi un tanto, se ti fai l'estratto conto ne paghi un altro conto, un altro tanto. Cosa vogliono di più? Infatti. Mi bilani anche 30 euro al mese, 25-30 euro al mese, te ne mangiano tutti i soldi che c'hai, se rimuni qualche cosa ti rimani a niente. E allora è diventata una cosa... Boh. Aveva ragione mio cognato che il banco è una truffa, perché paghi per ogni operazione che fai, paghi col banco, ma se ti paghi un tanto, anche per pagare al supermercato e tutto. È una truffa, capito? Non è un'agevolazione per il cliente, è proprio una truffa. No, io non pago nulla se vado al supermercato o cosa, solo se ritiro dal bancomat pago la commissione, capito? E tu pensi che sia così, però fanno pagare sia l'esercente che a chi ritira. Non ti preoccupare che ti tengono in su. Ma... Anche l'esercente, prima se andavi al rifornitore, per dire, senza fare nome, il rifornitore che c'è al chilometro lì, quando c'era un'ina, se dovevo pagare, per dire, 10 euro, mi diceva no, col bancomat non fa pagare, perché l'operazione ci costa di più di quello che devi pagare più, quindi non fa, me li devi dare in contanti. E un giorno l'ho detto in macchina e mi ha detto, ascolti, devi dire questo. Lui anche se deve pagare un euro, glielo deve fare, perché se lui ha accettato il pagamento col bancomat deve farne usufruire i clienti, perché se no glielo togliamo, diglielo chiaro e tondo. E infatti, io non volevo pagare commissioni, e chi su è? E allora, non voleva pagare le commissioni, quindi se era poco non te ne faceva pagare, capito, con pochi soldi. E se io volevo mettere 15 euro, ero obbligato a mettere quanto voleva lui, perché se no col banco mi ha tolto il vaso a pagare. Chi c'ha me biasi? Aveva ragione la banca, dico sì. Dice lui, dal momento che si è messo il bancomat per sua comodità, deve fare usufruire al cliente del bancomat in tutto e per tutto, anche se deve pagare 5 euro, ma lui te lo deve far pagare, e poi che devi pagare le commissioni, cosa te non te deve fregare nulla, tu devi pagare in quella maniera lì perché hai il bancomat e paghi in quella maniera. Ehi vabbè, ma è dubbio stava usando suio. Non voleva pagare le commissioni della banca che erano troppo alte magari, capito? Sì, allora non ti rubo in un banco, e dici no, qua non si paga col banco, ma si paga solo in contanti. Come ieri sono andato al supermercato, se non mi avessi trovato i soldi contanti me l'avrei preso nell'occhio, perché ho fatto un bel po' di spesa. Quando sono arrivato alla casa mi ha detto guardi, ma già in contanti sì. Io ho detto sì, contanti saluti. E dice no, ha fatto gli iscritti, non funziona il banco. Me lo dovevi prima quando sono entrato, ho fatto tutta la spesa. Meno male che io ho l'abitudine di avere sempre qualche cosa in tasca, perché preferisco pagare con i soldi che col banco. Mi viene meglio perché mi accorgo quanto spendo, capito? E oltre che ti accorgi quanto spendi, cazzo, non ti accracano le commissioni. e appunto, e niente, dice, lo sai che mi ha detto, lo sai che oggi è stata una lotta, dice che lo facciamo apposta, clienti ignoranti, che dice, tu non devi vedere dall'inizio, c'è il cartello, abbiamo c'è il cartello all'entrata che lo sta funzionando il banco, e tu ogni volta fai storie, ogni volta dice fa storie questo qua, ignorante, gente che mi ha preso a voci, perché detto che lo devo dire prima, che questo e quell'altro, che ha perso tempo, gli ho lasciato i carrelli con la spesa dentro. Perché se non avevano contanti, giustamente come facevano a pagare? Lo so, Natali. Uno se c'è al banco, ma te va alla banca vicino, li ritira e poi paga, lo sapete, allora devi lasciare i carrelli bene di peso a quelli lì, dopo se la devono rimettere tutti a posto la roba, le ha lasciato due o tre carrelli tutti bene di roba. Lo so, dopo se lo devono rimettere loro a posto, è logico che ti daranno un carrello pieno. A chi si sa senza contanti non può ne pagare. Piero De Zendi, no? Dimmi. Sono entrato, ero al telefono. Dicevo, ho sentito, ho letto online che Banca San Paolo ha annunciato che eliminerà gli assegni. Quindi già al banco non potrà ritirare, e uno per non farci la fila magari non ne ritira e ci usa la carta di credito non per pagare. Poi anche gli assegni li vogliono levare, vogliono fare tutto tramite banco, ma in modo da controllare ogni centesimo, tutto il tassabile verrà tassato, se devi pagare che ne so un operaio in nero non lo puoi pagare, è un macello. E vai, fai la fila e ti ritiri i soldi se ti servono. Io c'ho la San Paolo IMIP, per dire, a me non mi è arrivato proprio nulla. Oh, guarda, già su internet se ne parlava già da un po' di tempo, questo di volere togliere i contanti dai bancomat, al limite servirà seppure lo tengono come terminale per sapere tipo l'estratto conto, i movimenti, capito? Quindi il saldo e i movimenti. Vedremo. Una seccatura sarà se è così. Io preferisco avere i soldi, cioè, io mi vergogno anche andare al bar e pagare un caffè, l'acqua col bancomat. E poi dici perché? Sono sempre soldi, vabbè però. Boh. Quello infatti. No, ma poi è tutto un insieme di cose, capito? Io per dire di spiccioli me li conservo e non. Io prendo, mi faccio salvadare, a fine anno mi tolgo il gruzzoletto e mi servono per fare qualche regalino, qualche cosa, faccio così, quindi anche i contanti a me mi servono perché poi il resto lo utilizzo, capito? Vabbè, un macello comunque, perché che ne so, chiami un operaio, un povero Cristo che ha bisogno di lavorare, gli fai fare un lavoretto, anche da 100-200 euro, non hai contanti e non lo puoi pagare, che ne so, ti fai aggiustare un cellulare, un computer, roba del genere, li vuoi dare in contanti? No, così, cash, non lo potrai fare in futuro. Che palle. Ma sono cose quasi impossibili, dai. Non la vedo giusta questa cosa qua, non la vedo proprio giusta per niente. Ma dipenderà solo da una banca, se dipende da una banca basta cambiare banca e buonanotte. No, non è questione di una banca solo. Ti ho detto, sarà per tenere d'occhio tutto ciò che ti entra, tutto ciò che ti possono tassare, te lo tasseranno, più di quanto non siamo tassati. Sì, e a me quello che mente, la pensione, che se non sanno quanto prendo in pensione, lo sanno tranquillamente perché io faccio 7,30 ogni anno, quindi cosa hanno da tartassare? Ma metti che uno prenda la pensione e lavori nero, no? Se non ci sono contanti liquidi non te li possono dare in mano, capito? La fanno forse anche per scoraggiare i lavoratori in nero, perché vabbè, loro dicono che lo fanno per tutelare i lavoratori, no? Invece per ingrassare le banche, tutto in funzione dei soldi, altro che tutelare i lavoratori, tutte balle sono. Sì, vabbè, comunque loro a me, io vado al cosa, faccio la fila e me li danno lo stesso, problemi non ce ne sono. L'ho già fatto perché un periodo mi è scaduto il banco, ma io non sapevo nulla, non mi hanno fatto né avviso né niente. E praticamente l'avviso mi è arrivato dopo che me l'hanno fatto. E sono andato a ritirare e mi ha scritto che praticamente non potevo erogare. di informarmi nella banca più vicino. Sono andato in banca e mi hanno detto che praticamente era scaduto, che dovevano rifarlo, però rimanevo senza banco, ma come fare, come non fare, che i soldi sono dovuto andare a farmi la fila per ritirarmi i soldi, e dovevo ritirarmi sempre sulle 500 euro, di modo che poi non dovevo stare a fare la fila ogni volta. Sì, sì, infatti. Vabbè. Qualcuno si dice che andando a ritirare lo sportello doveva quasi giustificare la... Dice, per questi soldi a cosa le servono? Mi devo pagare la escort. Cioè, hanno una domanda del cacchio, gli danno una risposta del cacchio. Cioè, ti devi giustificare se stai ritirando i tuoi soldi alla fine, se te le tengono le banche. Vabbè, poi bisogna vedere se questi episodi sono veri, ma... La cosa che a me mi è successo con un assegno, mi avevano dato un assegno grosso, mi avevano dato, vado lì alla banca e non mi vogliono i dati di là. Ma deve conoscere qualcuno, perché io lo volevo cambiare, no, questo assegno. Conosco tale persona, ma non c'è a chi ha bisogno di infili, chi si è impiegato in Cunicciù, era un funzionario, era addirittura lo babbo di Giuseppe Cubiddu, un credito italiano, lavorava. Cazzo, e se avesse un altro documento, a chi l'avevo dato la carta d'identità e la patente, no? Più documenti di chi sì. Alla fine mi sono ricordato che c'avevo il porto d'armi, c'avevo. Ascolti, aspetti, ne ho un altro documento, se serve un altro documento per potermi dare questi soldi, perché a me mi occorrono. Mi la giocava del rubuccio d'arma, solo perché avevo il porto d'arma mi hanno cambiato l'assegno. A te l'immagini? Perché si presuppone che tu sei una persona per bene. Se no non me l'avrebbero dato di soldi, con la patente e con la carta d'identità. Allora era un beato l'assegno. Sì, beh, perché si presuppone che se tu c'è il porto d'armi non sei un delinquente, che rilascia il porto d'armi mica è delinquente. È alto era, mi sembra che era un 3.000 euro, una cosa del genere. Cazzo, non me ne volevano cambiare di nessuna delle maniere, stavo per andare alla finanza, non ci credi tu? Per forza te lo dovrò cambiare, se firmate tutto qua te lo dovrò cambiare per forza, è così, se no lo versi nel tuo conto e poi te li ritiri. Ma io non ero correntista di quella banca già, ero al Credito Italiano in Piazza Tola, lì per andare in Piazza Tola. Cavallo si chiama con un altro nome, però era il Credito Italiano allora. Non me ne volevano cambiare. Cazzo, perché l'assegno era troppo alto, perché questo, perché quello. Aprile si mirano i raddiri di là, se no andavo o dal carabinieri o alla finanza e mi lo dovevano cambiare per forza. Davvero. La panda glielo porta tutti i contanti. Tutti i contanti, 10.000 euro, tutti i contanti. Sì, cuocone, come fai a avere il coso? Che sei cuocone, ma ti possono dare tutti questi soldi? Che poi vai sulla porta e te li spruzzi tutti. E vai, drogato, perché tu non sei drogato? Ciao Luca. Io sempre, ciao Marco, ciao Gianni, Gianna Nannini, Natalino, quel cuocone di Natalino. Tu sei Natalino. Ciao Lucrezia Borgia. E io già lo so già, e tu lo sai. Andiamo. Ciao Marco, riprendi, e beh, come stai? Sto bene. Si tira avanti Luca. La vita è sofferenza. Mamma è sempre così un po', quindi mezza allettata, quindi la situazione potrebbe essere migliore. Adesso vediamo se il sangue migliora, le piastrine si opera, però ancora ce ne vuole. Cappa, riprendete che chiudo le finestre. Ma all'anca, ma... Eia, prima l'una, poi l'altra. Se le deve fare che le faccia. E aspettato anche troppo. Ma non soffre di dolori. Oh, iaia. Quella roba contro la gente che fa. Cosa faresti? Sorry, un'ottica seria, è un'ottica pazzesca. E mica ci sono sempre le persone, scusa. Come quando ci sono i tatuaggi, se c'è qualcuno ascolti. È una figata. Hai capito? Non conoscevo questa cosa. Hai capito? Già non la conosceva, eravamo già il baracchino, già lo mettiamo già. Non la conosceva? Il baracchino lo conosceva, capito? Allora, ti piace un sacco, ascoltarti. Dice, l'altra volta io ho lasciato il baracchino acceso, mi stavo ascoltando lì. Cappa. E chi è? Qualcuno della chat? Una mia amica, una mia grande amica. È pure bella Gianni, una bella ragazza, non è perché è qua ma è bella. Cappa, avanti Gianni. Vabbè, io la saluto allora, mi hai sentito a convialità, non so come ti chiami, Gianni da questa parte. Io come ti chiami? Piacere Margherita. Margherita, sei che di vernice, coloriamo tutti i muri. Comunque c'è Natalino e Marco anche, salutali. Natalino. Ciao Natalino, ciao Marco. E ciao Gianni. Gianni Magni, Gianni Migli, Gianni Veri. Perché Margherita è bella. Mi è lui, mi Gianni il caldo. Ciao Margherita. Ciao Margherita. Luca, ma è al telefono e in presenza? No. Magari come si dice? Tramite computer, no, è abitato a pochi chilometri da Sassari, ci siamo visti anche ieri. Ah, tipo videochiamata ieri. Yeah. Yeah. Ok, quindi ricambio i saluti. Ho chiuso la finestra, c'è fresco un po' adesso, mi devo coprire. Fate, riprendete. Sta mutando sei caro. Mi fa troppo ridere, ragazzi. Già, guarda WhatsApp. Io. Oh, ragazzi, una bella giornata ha fatto oggi, Una bella giornata. Molto, molto bella. Domani è ancora più caldo, c'è. Non mi sembra vero. Chissà, dove sarebbe bello anche andare a pesca, tipo, io c'ho tutto distrutto. Solo le canne da pesca sono buone. Mulinelli sono da buttare. Te lo do io, mulinello. Lo vuoi. E cosa vuoi in cambio, caro? Già lo sai. Ah, il 5.005. Io non voglio niente in cambio, se do una cosa la do col cuore, già lo sai. A me sembra sei più coccomane di Luca tu. Caspita. Cosa ne dici già? Un attimo che ce l'ha tre. Ah, Natalina, di quella cosa dell'assegno che non te la volevano dare? Sì, di solito è così, se non sei correntista della banca che hai messo l'assegno, ci tentano sempre, tentano di non fartelo ritirare, a meno che non fai storie e proprio li chiami qualcuno, però non so se siano tenuti, se non è il conto a fartelo incassare, dipende da quanto è serioso il coso che hai trovato, capito? Il commesso, come si chiama? Fannapoli, impiegato. Cosa vuoi che ti dica io? A me mi è successo perché l'assegno non era il mio. Sono stato 3 o 4 mila euro, adesso non mi ricordo, che erano soldi di mio padre, mi aveva dato l'assegno, io l'avevo girato e lo volevo cambiare giustamente. Sono andato alla banca a ritirargli i soldi a mio padre e non me ne volevano dare di nessuna delle maniere. Meno male c'avevo il porto d'armi nel portafoglio, che non lo porto mai. Quello lì, ostai che lo perdo. E allora praticamente gli ho dato quello, se gli hanno fatto le fotocopie, si hanno fatto prima di tutti i documenti che gli ho dato per verificare la mia identità. Dimmi tu, guarda, me l'hanno dato e conoscevo addirittura un funzionario che però in quel momento non era lì. Se no magari signor Luciano, la buonanima, avrebbe messo la firma e me l'avrebbero cambiato. Perché io conoscevo proprio un funzionario di Dimmi, solo che non vede e allora non me ne volevano cambiare. Ci voleva qualcuno che mi conoscesse, dice. Dovevo essere conosciuto. Insomma, anche loro non è che abbiano tutti i turti, ne fanno un bel di truffe di questo genere qua e devono andarci con i piedi di piombo perché se li fregano se li pagano di tasca. Quello già. Dopo che superi i 1.000 euro cominciano già a fare storie questi qui, a quanto ho capito. A Platamone è venuto uno una volta a cambiare, a fare la spesa, si è riempito il carrello, aveva fatto quasi 200 euro di spesa, si è riempito il carrello a montagna brutto e c'aveva l'assegno. E mia nipote gli ha chiesto la carta d'identità, gli ha dato la carta d'identità, tutto quanto, e gliel'ha cambiato. Ed è tornato il resto, tutto qua. E anche un assegno abbastanza grosso, mi pare che era di 1.000 euro. E fatto sta che poi si è scoperto che questo assegno era stato rubato. Era stato rubato da una macchina. E lui cosa aveva fatto? Ci aveva attaccato la sua fotografia nella carta d'identità dell'altro che aveva rubato, capito? E a questo qua non è bastato una volta, ha avuto il coraggio sporco di ritornare nello stesso negozio per rifare la spesa con l'altra sedia di quelli sempre furati. Quando è arrivato gli hanno chiamato i carabinieri e se ne è scappato in mezzo alla pinetta, l'hanno inseguito nella pinetta, la pinetta l'hanno impigliata, erano disusi. Ma ti devo immaginare. Quello hanno ragione, i poverini gatta, gli ha truffato tutti i soldi del resto, oltre la spesa, un sacco di soldi erano. E quelli se li mancano di là si diventano i bagaedini. E per fortuna era la fine del principale, capito? Perché se no, se fosse stato un altro, apriti o cielo. E infatti, e noi sul discorso, c'hanno ragione anche loro, a me non me ne volevano cambiare, perché era grosso come assegno, anche, oltre 1.000 euro cominciano già a fare storie, da voi si è uno 3 o 4.000 euro come quello che avevo io, perché erano soldi di mio padre, no, mio padre mi aveva dato questo assegno che gli avevano dato, e non me ne volevano cambiare di nessuna delle maniere. Sì, allora ci usavano le quantità di quelle cartacce e lui ci aveva attaccato la sua fotografia, capito? Nella quantità di chi se gli aveva furato il borsello con tutto assegni, tutto quanto dalla macchina. E poi già l'hanno sgamato che cosa aveva fatto, aveva spaccato il vetro di una macchina, rubato il borsello che c'era dentro e c'era tutto quanto, soldi, assegni, e lui stava giostrando con questi assegni. Come ce n'era uno che praticamente veniva pagava con gli assegni postali, conosciuto perché veniva a fare la spesa, deve essere poi finito male, piano piano, zuppicato, fino a quando non c'era più soldi, andava a ritirare gli assegni ed erano a vuoto. Alla fine, siccome abbiamo scoperto dove abitava, mi hanno mandato a me a riscuotere il credito, che è sempre un lavoro molto ingrato. Gli ho suonato il campanello e mi ha fatto una signora di fronte, mi ha detto che sta cercando quello di fronte e se ne è scappato, sa quanta gente lo sta cercando, se ne è scappato, ha preso valigie e tutto, l'abbiamo visto partire e non c'è più tornato, se ne è scappato via, ha fregato un bel di gente. Quello è proprio essere delinquenti. Purtroppo è così, è vero. Io il giorno mi ero incavolato perché erano lo stipendio di mio padre quando faceva le stagioni, no? Ed erano assegni cospicui. E andavo sempre io a cambiarglieli. Vado al credito italiano e non me ne voglio andare. Ah, era anche fuori piazza questa assegna. Figurati. Una volta il principale Aliliana l'aveva mandata in banca a cambiare un assegno e lui conosceva un tipo che lavorava lì e ha detto però cambi questo assegno, sì, prende, lei non sapeva nulla e invece questo assegno qua era vuoto, l'hanno chiamato dalla banca, hanno fatto casino a quello, lì aveva la faccia in terra perché non sapeva, dice lì incassato, interessante che l'abbia incassato, dopo già ci pensiamo dopo. E infatti, che volo. Sono truffe quelle, ma, e poi magari quello che aveva messo la firma ci rimetteva lui e gli hanno fatto il lavaggio di cervello, ma lì non ne aveva neanche perché non sapeva nulla, il principale l'ha mandato a cambiare questa serio, cosa mi poteva sapere? Dice lei c'ha una mano d'oro, mi ha detto, perché la sedia non me l'avrebbero cambiata a me, perché mi ci sono sudi. Andiamo bene, andiamo, via, cazza. E mi Lucrezia, che te mi contas? A casa già, a casa battagliando con mamma, è un casino, cazzo, c'è anche questo ossigeno. Poi sta prendendo il diuretico e non regge, ma là c'è il panno, vabbè. E niente, c'ha le gambe molto deboli, poi io dico, cavolo, l'avete ricoverata, cazzo, 10 giorni con il cazzo, allora fatela sollevare, fatela camminare un po', visto che ci sono le ossa, no, sono anche per quello, con un girello si poteva far camminare, un cazzo, cioè non reggeva proprio, diciamo un po' disperato, adesso è un po' così, no, che sta bene. Te l'ho detto, anche mio padre aveva perso tutto l'orientamento, tutto quanto, dopo era ricoverato. E praticamente io lo prendevo da dietro, lo prendevo, lo aggrappavo sotto le asce. In che senso? Dai, lui aveva paura. No, non aver paura, ti aiuto io. Prova che poi ha ripreso a camminare normalmente come camminava prima, capito? Però intanto all'ospedale, come era allettato, aveva perso la forza, perché perdo la forza dei muscoli, dei muscolari, capito? Lo so, ma già, mamma non ce la fa a prenderla, tranquillo, papà, mamma è pesantissima, non ce la fai proprio, se cade, ci vuole Gesù Cristo a sollevarla da terra, come fa, già c'è successo tanti anni fa, è caduta, meno male, vicino al letto, è caduta, per sollevarla è stata un'impresa, veramente un'impresa, ma qui noi ce la facevamo a sollevarla, però ci siamo fatti forte, ce l'abbiamo fatta, ma se dovesse cadere, io sono solo, sono fregato, devo chiamare i vigili del fuoco, veramente, non sto scherzando, cioè molte volte le cose si dicono per ridere, ma è così. Sì, vigili del fuoco, basta che vengano l'ambulanza e adesso la sollevano tranquillamente, la sollevano con la barella a cucchiaio, la mettono sul letto e poi si solleva, non è quello il problema, ma anche io sono caduto nella portollella, te l'ho detto. Sì, me l'ha detto, sì. Vabbè, tu già hai il problema della gamba, hai avuto l'operazione. Non ce la fa mamma sulla carne da... Cioè, sì, non ce la fa a stare in piedi da sola. Anche se tu la moglie cammina, già cammina, però meglio rischiare. Meglio che ci sia qualcuno vicino. Questa volta è toccata a me, dai. Oh, via, per carità. Poi prendo un sacco di pastiglie, ma lasciamo perdere. Bisogna pure usare degli biliari, ma vabbè. A mamma per esempio non gli è successo che sono mancato io, ce la dovevano curicare, sono fuori in quattro, non ho bisogno di decidi, se carri due si legge buttare e si legge cucare dalla giura, perché anche il modo di, bisogna saperli prendere i malati. Basta che tu la fai attaccare al collo e la sul lì, e ci vuole anche il metodo. C'è al collo? Se la fai abbracciare al collo e poi la sollevi da sotto la scena. Ma che cazzo fa sollevare? Cioè, dove dici che ci sono 30 kg, ma se stai scherzando, fate ciò proprio nella schiena. Forse male, tu ci riusciresti, ma io no, non ce la faccio già, ma stai scherzando, no, è pesantissima. Ma guarda, sono sicuro, ma tu ce la fai a sollevarla, a scommessa. E quanto pesa? Io penso intorno ai 130. Se non sono 130 saranno 120, ma lì siamo. Allora è ingrassato, perché io non l'ho conosciuta così robusta, dai. Diciamo con 10 giorni ricoverata qualche chilo l'ha perso, perché stava facendo la dieta, lei già si stava lamentando, capito, cioè quello, ma lei deve lasciare le cazzate, comunque la glicemia è perfetta, l'ho misurata prima di pranzo, ce l'aveva 134 mi pare. No, sì, 124 era buono, me la metto, vabbè, comunque. E niente, poi c'è questa pastiglia in più, visto che le glicemie sono sempre alte, e l'insulina gliela faccio 50 unità, questa suliqua. E niente, insomma, alle 8 c'ha le paria da fare, e le due pastiglie deve prendere, un casino. sai cos'è il problema? Io ho fatto delle domande di lavoro, sto aspettando delle chiamate, adesso che mi chiamano non so quando. E come faccio? Dimmi tu come faccio, boh. Tuo fratello non c'è a casa. Se ne prende il culo a lui. Vabbè, a che mai io? È per un bip, sento. Insomma, siamo nella stessa situazione, Luca. Mamma mia, ci vuole pazienza, un bel di pazienza. Avanti break. Buonasera a tutti, buonasera. Eccomi qua, buonasera a tutti. Antonio da tutta parte, se Aroal c'è entrato, perché non c'è impegnato. Tanto noi ci siamo da sei usignali da robe di qua, sa, cioè, sei vecchio a casa tua, sei forte comunque, cioè tu, avanti la salita. Ciao Antonio, ben sentito, ben entrato, avanti già. Ciao Antonio, ben entrato e ben sentito, e hai Antonio occupato che adesso è babbo, e insomma prende tempo anche quello, dai, prende tempo. Natalino, riprendi. Te parlate in due, siete due ore che parlate in due. Poco fa Gianni e Natalino, adesso di nuovo Marco e Gianni. Se mi rilasciavo il macchino, fammi dare i dati, poi fu. No, ero distratto, scusate. No, sai cos'è? C'è quell'animale dall'11 di americano, sta sbraitando, arriva a Roma ai 9.10, 9.15, mi sta splatterando il suo canale a fianco, ma te lo immagini? Arriva a 9.20 quello lì, tempo di strada. È vero, poi ci sento il bip di sblatteri, anche io. Adesso tutti i canali che ci sono, ma adesso attacco l'amplificatore, aspetta. Mi lo sentite di sblatteri? Basta andare a dirglielo, pago pago, di spostarsi. Rilanciamo a Margherita, Margherita avanti! E tu non puoi parlare, devo schiacciare io, devo essere io a farti parlare, perché devo schiacciare il microfono. Ma fa, è prima che schiacciato. Appunto, perciò lo decido io, se devi parlare o no. Ah, il chigno mi ha fatto. Cosa a fare sono? Non te lo dico, ma te lo devi mettere. Come sono educato. No, non devi mettere tu, in realtà io non posso mettere più niente. Che mani mi dubbo. Ci sono anch'io, buonasera, buonasera, buonasera. Mica c'è Eugenio, mica sta chiamando. Buonasera. Ciao Eugenio, dove sei? Sto transitando qua, ufficio delle entrate, cambio. Buonasera a tutti. Oi, l'amico mio di Porto Torres, a chi arrivo all'ufficio delle entrate, però non ci voglio entrare io lì, Allora, no, l'ho già passato oramai, dai, l'ufficio delle entrate. Non ti preoccupare. C'è questo strombolo, cavolo, sull'11 che sta facendo un giramento di scatole. Mi conviene spostarci un po' all'8 così, 7 già, non lo sento Eugenio, lo sta sbatterando di brutto. C'è uno su canale 6, non è su canale 6, mi arrivava a fondo scala, in inglese, vuoi il gabo. E adesso non vedo il tempo, la propagation inizia. E Eugenio, 9.15 sei a casa. Per forza, questo impianto funziona alla grande. Da dove stai tornando di bello? Torre Grande, località Torre Grande, Uristan. Anche uno al 6 ce l'è un bel potente, mi passa al 6 tu. C'hai ragione Eugenio, c'è un tipo un bel forte lo stesso. Tipo 9.25 sta arrivando, ma state l'unici e lo dica a fondo scala quasi. Sono Obama. Ciao a tu, buonasera. Natalina gli sta dicendo roba a me. Ciao Eugenio. Voilà, ciao Marco lì. Allora, come va? Tutto a posto? Tutto procede lentamente. Ma procede inesorabilmente, K. Quello è sempre un nuovo luogo, perfetto. Oh, c'è uno splatter allucinante dall'11. Eugenio, purtroppo quello c'è una missione talmente larga che praticamente prende 3 o 4 canali. di modulazione. Ho capito solo nuovo. Che cosa? Hai comprato roba? Quello che gli hai venduto tu. Venduto? Ah, quello che gli avevo dato, non venduto, dato, ia. Buono, funziona sempre. Sono contento. Almeno è sfruttato, io non lo usavo molto quello. Anzi, non lo usavo più, praticamente. No, l'ho detto venduto, ho detto quello che gli hai dato tu. Capito Marco, ha detto quello che gli hai dato tu, non venduto. Ho sbagliato io dicendo. Dato, sì. Ia, sono contento che sia sfruttato quel baracchino, perché io... poco lo usavo, questa cos'è già. Io non riesco nemmeno a contarli da quanti ce n'è qua di baracchini. L'ho mandato a fanculo l'americano. Dile che lo richiamo la canzone di Maneskin. Hai capito? L'americano, a non rompere le balle. Natali, digli all'americano che gli mandiamo Putin se non lo smette. Oh, che si dicono neanche bomba atomica, ma va così. Ciao Natali, buonasera. Ciao Luigi. Bonsoir. Bonsoir anche a Fossia. Oui, Eugenio, mi senti? Sì, Antonio, tu sei? Antonio sono. Ciao Antonio, ti ho salutato per la fama, non mi sentito. Non era detto Gurrudone, era detto. Andiamo, purtroppo ho visto anche questa persona, ma sai che oggi ho una bella giornata, anche questo, con questa bella giornata arriva la propagazione, è normale. Sono un giramento di male uno si mette a canale a fianco, vabbè, mica loro sentono a noi, perlomeno, non credo che ci sentano, ma hanno apparecchi di quelli seri che non prendono lo splatter. Vabbè, comunque, cosa rifà? Ciao Antu, una bassata di Sambuca. Sai, ieri a proposito di Sambuca mi ho chiesto una, perché c'era un po' la gola, un po' così, no, per cantare. Facciamo la Sambuca, gnignigni. Ciao, sono Luca, vai. Acqua vite, bisogna andare all'acqua vite, parricata, pesante. Per la gola se ne vogliono solo sette, Luca. Uggi, no. Non mi piace avere questa roba qua. Ma siamo mucchiassi, dai, dolce. Una, però massimo due, va. Ma è proprio piano, vi. Cioè, dalla sera sto con due bicchieri tutta la sera. Due bicchierini. Ah, tre, vabbè, anche adesso sono arrivato, vabbè. Alla fine, quando uno mangia, ci può anche stare. Certo che se queste cose le beve a stomaco vuoto, allora va più bene. E poi tu sei un briacone fragico anche. O tu sai? Luca, ma ieri eri al corso, in un locale del corso, Vittorio Emanuele, o no? Esatto, sì, ero io. Cavolo, eri tu? No, perché ti spiego, siamo scesi in macchina, stavamo andando, passando al corso, io ho visto uno che assomigliava a te, però siccome non ti vedo dal vivo da un bel po', vedevo questa barbetta, ma non è sicuro, sennò, a parte che non guidavo io, non potevo nemmeno suonare il clacson, capito? C'è la barbetta sempre, sì, ero io. C'avevo, allora, ho il cappottino con un giubbotto scuro, là. Adesso non mi ricordo, perché alla fine, siccome sto usando la bici per uscire, per spostare la bici elettrica, no? E niente, mi copro bene, e un giubbotto in più me lo metto sopra. Sai cos'è, no? Sai com'è? La notte vado via verso mezzanotte, luna, c'è freddo. Poi ci mettono il vostro giubbotto in più, freddo le prendo, poi cuffietta, guanti, e chi ne prende freddo? E non me la metti la bici quando vai nei locali? Dentro me la fa mettere. Ah, e se no gli ha l'acciappito. L'acciappiguattro. Ragazzi, io mi sono... Ciao Uggi, dai, buon rientro, a dopo. Io già ti accompagno fino a Portottone, se non c'è problema. Ciao Eugenio. Se Antonio non lo sento, sentivi Antonio Eugenio? Basso, pensai io, lo stesso basso, poi glielo sentivo, da. Andava, comunque lì c'era un po' di gente, Antonio, cavolo, pieno era il circo. Io devo incontrare quei due, mi hanno incontrato. quei due tipi chi? Sì, a Lusaka. E boh. Non so chi siano, ma marito e moglie, o chi? Ma Giulietta Romeo. Ah, vabbè, ma fatti dire, la prossima volta non ci andrò più lì, non ci vengono più, e più non li fa più entrare. Poi non lo so, sono cazzi loro, e quando si comporta bene non lo faccio più entrare. Chi sia amico o chi sia qualche conoscente, ci vuole rispetto e basta, è inutile. Ah, beh, anche già lì, già lì, comunque ieri Luca ragiona, vabbè, lui era al chiuso, però in giro al corso, piazza Castello, piazza Italia, via Roma, un bel di gente c'era, cioè rispetto agli altri giorni che non c'era proprio un'anima, sarà la temperatura più alta. Ah, poi un'altra cosa, sentivo musica, però non capivo se arrivasse da piazza Italia, da piazza Castello, non ho capito, però da qualche parte c'era come un concerto. Piazza Tola? Sì, che hanno fatto il concerto. Ah, ecco perché era chiuso al traffico, c'erano le transenne. Allora siamo dovuti scendere in Corso, a Corso Vittorio Emanuele. Ok. Beato che sa cantare, mamma mia, io meglio che non canti. E io riprendete e vado a bere. Un attimo che sono a fare. Questo Gianni con tutte queste ammiratrici che c'ha sempre al telefono, A me non mi telefona mai nessuna. C'è mia moglie che mi sta guardando come una pantera nera. Zitto che se no parlo. Spione. Non so solo io già nel caldo. Fino a che l'età ci assiste. Ah, devo chiamare la botto, E tu, No, ma con me, ma dico, fin quando ci assiste l'età. Piano, piano, va. Quando ero giovane brinchitavo forte. Io avevo un Black Decker. Piano, piano. Sì. Che va, si calma a cavallo, lasciala andare. E chi tu ti rendi sotto ai baffini? Chi Santugna? Te li immagineggi? Io ripiaterebbe con questi cosi. Vabbè. Te credo, se potessi tornare indietro vagu, ma ci mandiamo a Natalino con il negozio nuovo, quale negozio? Nara, che sono curioso adesso. Aspetta che te lo mando. Chissà cosa è, mia maledizione, dice, vedete, no, Milomi, aspetta che mi ha mandato un video, una persona. Mica non è una paura a me, mica mi prendono veramente, mi chiede a Luca se non mi crede. Io lo so, Luca ci va sempre a comprarsi. A me piacciono un sacco. Adesso giorno ci porta anche a Gianni, vedrai, Gianni sarà più goloso di me. Ma ce n'è anche uno in corso di magheggio di Salvoia, ma deve essere dei stessi per momento. mangiando sia una cosa, caro sia l'altra, capito? C'è la patata e il giusto. Eia, scherzano con la crema, e poi ci mettono la crema dentro, boh. Come se come è andato, come la frutta sei a me. Cioè, si vuole inventare. Sì, c'è quella con la crema, con la zella, ti fanno scegliere il tipo di crema che vuoi. E io lo posso mettere in vendita, magari. Non ci fa bene. Le dimensioni, diciamo, non sono molto, però già vanno bene.